Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Tornano gli appuntamenti delle feste con le nostre voci in scena, i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un giovane artista italiano. È nato a Milano nel 1990. Figlio d'arte, il papà è Enrico Ruggeri. Alla musica si avvicina studiando canto corale e pianoforte al conservatorio. Da adolescente si avvicina all'hip hop e al teatro. Nel 2011 pubblica il primo CD, La danza della realtà. Nel 2012 collabora con Moreno. Nel 2013 pubblica il suo secondo album, Il secchio e il mare. Nel 2015 partecipa al reality show Pechino Express ed esce con l'album Locura. Lui è Pico Rama. Siamo canali tra il cielo e la terra, ma siamo pieni di merda. Anche i regali del divino, fermi nell'intestino. Siamo canali tra il cielo e la terra, ma siamo pieni di merda. Anche i regali del divino, fermi nell'intestino. Di Pico Rama si dice sempre che è un po' matto e, caso strano, ha intitolato il tuo disco Locura. Locura è perché finalmente confessi di essere un po' matto? Ah, finalmente sono riuscito a impazzire sul serio. Era un'aspirazione che avevo da molto tempo. È importante impazzire per poter vedere cosa c'è dietro la mente, no? Ci sono critici, anche molto critici, che hanno detto che la terza prova solista di Pico Rama, perché nonostante tu abbia 25 anni sei al terzo disco, è quasi quella di un giovane Franco Battiato. L'hai letta questa cosa? Essere paragonato a Battiato è ciò che desideravo maggiormente, cioè è il mio modello principale, anche per paraculaggine mi piacerebbe. sì. Cioè, esplicita questo concetto, perché io già pensavo che fosse solo per una questione di radici, di spiritualità, di studi, invece anche per paraculaggine. C'è quello, cioè è la cosa meravigliosa che può insegnarmi Franco Battiato è riuscire a portare concetti di Gurdjieff, cose molto profonde, alte, legate alla cultura dello spirito, è in grado appunto di portarle al grande pubblico attraverso una formula pop. Ci è riuscito a 40 anni Battiato, dunque spero di arrivarci prima. Però, a quella paraculaggine, no? Quindi pop, ma fonti e ispirazioni complesse, testi anche complessissimi. Sì, diciamo così. Questa è la cosa che vuoi fare, vuoi mettere d'accordo queste due cose? Sì, poi sulla complessità dei testi c'è da dire che sto seguendo la via della semplificazione. Il mio disco precedente, su cui già mi intervistasti, già ci incontrammo con occasione di quel disco precedente. Quel disco già aveva un fondo esoterico che per me era molto importante, era il proposito artistico che stava dietro quel lavoro, però era molto mentale, era molto intellettuale nella resa, quasi intellettualoide a volte. Mi sono semplificato scendendo dalla mente verso il cuore. Avviene di frequente che ci pestiamo i piedi e poi ci rimangono soltanto le pareti sopra cui sfogare fuoco e ghiaccio di cometa, forte fuori dentro, delicato come seta. La nostra violenza rivela la sua natura quando diamo l'ultima occhiata alla realtà. Siamo stati battezzati dentro alla paura, ma supereremo tutti i limiti che dà. Noi, confusi dall'idea dell'immortalità, vediamo la metà della connessione. Noi, confusi nella plea dell'infinito società, ma confida nell'umanità. Hai intitolato uno dei primi brani che hai presentato di questo Locura, Regali del Divino, tra parentesi, merda. Hai. E infatti tutti hanno detto, perché? Che cosa c'è sotto? È uno dei brani manifesto di questo disco, perché parla di quello che per me è l'unico metodo veramente efficace per lavorare su se stessi. e cioè non illudersi di poter lavorare con la luce, ma concentrarsi sul lavorare sulla merda, perché la luce possiamo accoglierla solo una volta che siamo stati in grado di svuotare i nostri canali da tutta la caccona dura e molle che ostacola i nostri processi interiori. È una metafora forte. Sì. È una metafora forte e sporca. È molto vera per me. Con merda intendo sia la merda fisica, sia tutti i condizionamenti che ci portiamo addosso, tutto quello che crediamo di essere. Una delle cose che dico in quella canzone è che spesso ci illudiamo di essere questa merda che ci portiamo dentro, quando in realtà siamo soltanto dei contenitori. Le tue radici spirituali dove vanno? Ma un po' dappertutto. Direi la prima risposta che mi viene da dare è al centro di questo pianeta, dove vanno le mie radici. Se io senti cosa mi ha portato a pensare queste cose, ma a sentire queste cose, direi, è meglio che pensare. Sono tantissime culture diverse attraverso su cui sono passato. Le principali, quella che mi ha dato di più nell'ultimo anno e mezzo o due, è la cultura sciamanica sudamericana, un certo tipo di cultura sciamanica sudamericana. Soprattutto il mio ponte è nella giungla del Putumayo colombiano, dove sono stato e ho conosciuto gente potente. Se li conto, ma al centro c'è un pezzo di e scendono di notte le notole, le frottole e frotte di comete. Siamo parte il bene o il piede di una grande rete. E scendono di notte le zoccole sacre a illuminare le strade. Lo sai che cade la meteora, cade la materia, ma il cielo non cade. Fammi subito andare dalle stelle alle stalle. Spiritualità, concetti alti, e come hai messo d'accordo tutto questo con un'esperienza televisiva come è stata quella di Pechino Express? Ci siamo rimasti malissimo, peraltro, quando sei stato eliminato, malissimo proprio. Come si fanno a mettere d'accordo queste due cose? Intanto quell'esperienza televisiva in particolare era molto in linea con i miei interessi, il mio percorso. Già sono fan di Pechino Express dalla prima edizione, mi è sempre piaciuto molto il modo in cui ci fa vedere luoghi, ero anche sempre trovato molto divertente. In più è stato bizzarro vedere che quest'anno, l'anno in cui hanno preso me, è andato in Sud America, proprio in zone ben vicine alle esperienze di cui accennavo e che stavo vivendo nell'ultimo anno. Dunque è stato assolutamente perfetto andarci. Non ho dovuto in nessun modo cercare compromessi rispetto a quello che sono. E anzi, mi sembra sia uscito abbastanza bene quello che sono. Per me era fondamentale essere autoironico, soprattutto parlando ai ruscelli, agli uccellini, cose del genere che faccio davvero, però è sempre importante riderne. Capace di prendersi in giro. Sì, uno dei problemi della maggior parte delle chiese è che non sono in grado di prendersi in giro. Eri in viaggio, tra virgolette, con Yari Carrisi. Avete anche collaborato in questo disco? Sì, io non conoscevo Yari prima del programma. Siamo stati accoppiati così da autori geniali. E devo dire che mi sono trovato benissimo con lui, è diventato un fratello, un carissimo amico, tant'è che è risultato assolutamente spontaneo metterlo in questo album. Abbiamo scritto questa canzone insieme che si chiama Your Jungle, in cui lui canta il ritornello e schitarra qua e là. Noi fuori dal cancello, noi che siamo normali, noi possiamo far tutto, noi che abbiamo la fortuna di essere sani. Noi ragioniamo senza perdere la calma, col controllo di noi stessi, senza orribili visioni. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo fuori dai problemi della psiche, sempre in pace col cervello e con i nostri sentimenti. Così normali i nostri gesti equilibrati, non danneggiano nessuno, sempre lucidi e coscienti. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali. Noi che sappiamo di contare sul cervello, siamo sicuri, siamo forti, siamo interi. E noi dall'altra parte del cancello. Dall'altra parte del cancello di Gaber, perché? Ah, tanto parla di follia anche quel pezzo. È un pezzo di cui mi sono innamorato clamorosamente appena l'ho sentito. Fa parte di uno spettacolo del 73, a far finta di essere sani. Che ha temi molto vicini a quelli del mio disco. Quella canzone parla di come l'uomo medio che crede di essere sano grazie alle a quelle banalità di cui si fregia di poter godere, guarda un uomo folle dall'altra parte del cancello come qualcosa da diverso. Ci chiediamo chi sia veramente sano, chi possa dire di essere veramente sano. E mi è piaciuto un sacco anche tecnicamente, perché Gaber in alcuni pezzi ha una metrica molto serrata, ecco, molto vicina al rap. Questo pezzo si prestava tantissimo a una mia interpretazione drum and bass. Che cosa penso di essere? Spirito in bilico, volto, un corpo animato, o fiamma senza ritorno. Ascolto il ritmo del cuore, il ritmo del mondo. Sono la cosa medesima, sputo l'ennesima cosa superflua. Vomito tutta la rabbia repressa, tristezza, manie di grandezza e manie di piccolezza. Smetto di disprezzarmi, mi battezzo nell'eterna bellezza. Ti faccio un'ultima domanda che è banale, scontata, ma anche no. Tuo papà sarà a Sanremo in gara, ma tu lo faresti mai Sanremo? Ma se avessi il pezzo giusto probabilmente sì, dovrei aver voglia di farlo. Cioè saresti pronto a infilarti in quel tritacarne con la tua calma serafica? Ti ci vedo bene a guardare tutto con la tua aria distaccata. No, ti ringrazio, non so come potrebbe andare, ma penso che se è banale la risposta. Se lo volessi fare lo farei, e con ciò non intendo dire che ora non voglio farlo, intendo dire che in questo preciso istante non voglio farlo, ma cioè, chissà tra 10 minuti, tra un anno, due, 14.